Benvenuti nella mansarda del Dottor Pyrats, un luogo dove Schwarzenegger è un ospite di riguardo. Per cui parleremo di Atto di Forza, un film di Paul Verhoeven. E voi avete amato i suoi film, o avreste dovuto amarli. Parliamo di Robocop, Starship Trooper, e si è distinto per essere irriverente, giocando molto su aspetti satirici ed esagerazioni, non sempre capiti da tutti. È uno dei migliori film degli anni Ottanta, Atto di Forza. È uno dei migliori film d'azione in assoluto, e dei più intelligenti di quanto si possa immaginare. Con Atto di Forza abbiamo un alto tasso di violenza, quella vera intendo, che non gli importa se una cosa non si deve fare perché non va bene, la si fa e basta, perché Verhoeven è un regista un po' mattacchione. Sarò più chiaro, per violenza intendo che Schwarzenegger usa senza problemi un civile come scudo umano, il quale viene crivellato di colpi. Ci sono arti brutalmente staccati di netto, i colpi delle armi da fuoco sono più grandi del normale, è tutto esagerato, in pieno rispetto dello stile del regista, perché alla fine Verhoeven sapeva cosa stava facendo, e dal momento che hai tra le mani un film d'azione con una superstar, tanto vale esagerare sugli aspetti tipici di questo genere. Inoltre, cosa non da poco, la pellicola è tratta da un racconto di Philip Dick e la storia è fantastica. Abbiamo Schwarzenegger nei panni di un normale lavoratore nel campo dell'edilizia, è sposato incredibilmente con Sharon Stone, stupenda oltre ogni limite. Però ha voglia di evadere dalla sua noiosa vita. Questa cosa mi ha sempre fatto impazzire, non mi ha mai dato pace. Ma continuiamo. Si rivolge a Recall, un'azienda che impianta nel cervello ricordi fittizi. Lui vuole vivere emozionanti avventure tipo agente segreto, ma non sa che veramente lui è un agente segreto che in precedenza ha subito un innesto di ricordi fittizi. Confusi? Beh, io direi estasiati. Perché per Verhoeven è tutto una burla, il protagonista chi è veramente? Cosa sta vivendo? Sogno o realtà? E questo aspetto è gestito in modo magistrale, tra i dubbi del protagonista e le trappole che gli vengono tese. Si apre così una trama costituita da scatole cinesi, dove man mano, passo dopo passo, ci si avvicina alla verità, o alla presunta verità. Altro che Inception. Abbiamo poi le facce di Schwarzenegger, che sono assurde. Quando penso a questo film, penso sempre a tutte le storpiature che appaiono sul viso di Arnold. Quando subisce l'impianto dei ricordi, quando è su Marte senza ossigeno, quando si infila nel naso quello strumento assurdo per togliersi via quella sfera, e così via. Per me sarebbe dovuto essere da Oscar, senza se e senza ma. Molti gustosi anche i mutanti, che sono degli elementi iconici della pellicola, che fondamentalmente sono dei poveracci che sono stati sottoposti a radiazioni e vivono ai margini della società. Abbiamo dunque un film d'azione con una trama avvincente che alterna momenti più riflessivi ad azione pura. Abbiamo anche Schwarzenegger che viene preso a calci nelle palle più volte. Forse Verhoeven voleva prendersi il gioco dell'eroe d'azione americano? Non lo so. Forse è solo divertente vedere Schwarzenegger beccarsi un calcio nelle palle da Sharon Stone. Rimane il fatto che il film è una bomba, la trama è avvincente, così come l'azione e il gioco sottile tra realtà e sogno. Il remake con Colin Farrell è una porcata immonda, e chi l'ha concepito dovrebbe essere punito duramente. Per cui decidete voi cosa è sogno e cosa è realtà e gustatevi questa perla. Buona visione.